Il sito delle storie presenta Verso il tempo di Riccardo Mini, seconda e ultima parte. Ventidue maggio. Oggi ho avuto la conferma che avevo ragione, se anche ce ne fosse stato bisogno. Sara non c'era nel letto al mio risveglio, perché è da sua sorella. Io mi sono alzato e sono andato al lavoro, come se niente fosse. Sono entrato in ufficio e gli altri mi hanno salutato, come se niente fosse. Sono passato davanti alla porta dell'ufficio privato del capo. Lui ha sollevato un attimo lo sguardo dal computer e mi ha fatto un mezzo sorriso distratto. Poi ha risposto al mio buongiorno, come se niente fosse, e si è rimesso a guardare il computer. Allora sono andato a sedermi al mio tavolo, ma non sono riuscito a lavorare. A parte le emozioni intense degli ultimi giorni, non riuscivo a concentrarmi perché sapevo che il mio lavoro era inutile. Qualunque cosa avessi fatto, il giorno dopo sarebbe stato da fare di nuovo, anzi sarebbe stato ancora da fare. Il che è decisamente frustrante in termini di motivazione professionale. Del resto, guardandomi attorno, non è che i miei colleghi lavorassero molto di più, benché non credo che anche per loro il tempo scorra all'incontrario. A un certo punto ci si è messi a parlare della partita tra l'Inter e la squadra finlandese che ci sarà tra qualche giorno, e ho chiesto in giro qualche pronostico, ma nessuno ci ha azzeccato. Il tempo non passava mai. Ogni tanto chiamavo Sara per chiedere se andava tutto bene, ma sapevo già la risposta. La noia ti fa fare cose strane, soprattutto quando sai di essere immune dalle conseguenze delle tue azioni, perché in quel caso non hai nulla da perdere, oltre che nulla da vincere. Allora, siccome non avevo nulla da perdere e mi annoiavo, ho chiesto l'aumento. È stato un momento che ricorderò. Il capo è entrato attraversando veloce lo stanzone in cui lavoriamo tutti. Io mi sono alzato e l'ho fermato, gli ho chiesto aumento e assunzione immediata. Il bello è che non l'ho chiesto solo per me, ma anche per tutti i miei colleghi. Quelli sono rimasti a bocca aperta e anche il capo era senza parole. Io allora ho rincarato la dose. Ho detto che se le nostre richieste non venivano accettate, avremmo messo in atto sciopero immediato e occupazione dell'ufficio ad oltranza, senza escludere sciopero della fame e lotta armata. A quel punto è successo qualcosa che non mi aspettavo. Il collega seduto vicino a me ha cominciato a dire che anziché fare il capopopolo avrei dovuto pensare di più al lavoro, visto che era tutto il giorno che mi vedeva non fare niente. Tutto questo davanti al capo. Altri colleghi, soprattutto donne, si sono messi ad urlare che ero matto e volevo farli licenziare tutti per prendere il loro posto, e quindi potevo andarmene al diavolo. Altri ancora semplicemente ridevano. Alla fine il capo mi ha licenziato in tronco. Tra l'esultanza della folla ho liberato i miei cassetti e mi sono diretto all'uscita, pensando tra me e me: ci vediamo ieri. Ventuno maggio. Stamattina siamo stati svegliati dalla telefonata della sorella di Sara che annunciava la nascita del bambino. Sara era contentissima e ha deciso di andarle a trovarla subito. Ha fatto le valigie ed è partita, quindi sono andato al lavoro. La mia scrivania era ancora al mio posto, i miei cassetti pieni della roba che mi ero portato via il giorno dopo. Dieci maggio. Caro diario, questo penso proprio che sia un addio. La mia vita all'incontrario con Sara procede a meraviglia e non ho più motivo di continuare a scrivere. Tutto quello che mi succederà in realtà mi è già successo, quindi a che serve registrarlo? Un paio di volte ho provato a dirla a Sara. La sera, a letto, le ho raccontato quello che succederà. La sua morte per incidente, il funerale, il tempo che si inverte. Ma non ha funzionato. In un caso ha pensato che scherzassi e si è messa a ridere. Nell'altro si è spaventata e si è messa a piangere. Comunque sia, in entrambi i casi, al suo risveglio non ricordava nulla. Addio, dunque. 6 febbraio. Oggi l'ho visto. Ero seduto al tavolino di un bar a leggere il giornale. Da quando vivo questa nuova condizione, ho riscoperto il gusto di leggere i quotidiani, non per informarmi, tanto più o meno so cosa succede, quanto come cura per il buon umore. Giorno dopo giorno il costo della vita diminuisce, le guerre fanno migliaia di morti in meno, stupri e omicidi di cui leggerò domani non sono ancora successi. Quindi hai la sensazione che il mondo migliori. Quando ho alzato gli occhi dal giornale, lui era lì, seduto al tavolino di fianco al mio. Aveva la faccia assonnata e assente, mentre sbocconcellava una brioche. L'ho riconosciuto subito dalla foto comparsa sui giornali il giorno dopo l'incidente. Quando si è alzato per uscire l'ho seguito. Avevo la sensazione che barcollasse come un ubriaco, ma probabilmente non era vero, si trattava della mia immaginazione. Ha camminato fino al tabaccaio, dove ha comprato delle sigarette. Poi ha proseguito lungo il marciapiede fino alla macchina. È salito in macchina, ha acceso il motore e mentre usciva dal parcheggio ho guardato il numero di targa. Era lo stesso. Anche la macchina, naturalmente. La stessa che fra 3 mesi investirà mia moglie, uccidendola. La macchina alla cui guida quello sconosciuto che avevo appena incontrato, pieno di pillole e alcol, verrà fermato 2 ore dopo l'incidente. Dirà di non ricordarsi di nessun incidente, ma le tracce di sangue sul parafango saranno inequivocabili. Sono tornato al bar dove avevo lasciato le mie cose e ho chiesto al proprietario notizie del ragazzo. Mi ha detto che viene lì 2 o 3 volte alla settimana a fare colazione, da circa un mese. Allora ho ringraziato, ho comprato un gratta e vinci e sono tornato a casa. 29 gennaio. Quello è verde? Come dici, scusi? Quella cosa lì che tieni in mano è verde? Sì. Ah. Ritorna a leggere la Gazzetta dello Sport. Poi, senza alzare gli occhi, continua. Perché io i colori non è che li vedo. È daltonico. Chi? Lei. Ecco, sì, daltonico. La Gazzetta, per esempio, mi dicono che è rosa. È vero. Io il rosa non l'ho mai visto, ma mi dicono che è il colore delle femmine. Infatti. E allora non capisco perché la Gazzetta non sono mica le femmine che la leggono, sono i maschi. Secondo me c'è anche qualche femmina che legge la Gazzetta. Sì, ma poche. Beve l'ultimo sorso dalla tazza di caffè. Lei perché mi fissa? Non è vero che la fisso. È lì da mezz'ora che non mi toglie gli occhi di dosso. Mi spiace, non me ne ero accorto. No, perché a me i maschi non piacciono, glielo dico subito. Neanche a me. Ah, ecco, bene. Si alza, paga ed esce dal locale. Io rimango seduto, ma mentalmente lo seguo, mi immagino quello che fa, perché lo fa regolarmente da quando lo tengo d'occhio. Passa dal tabaccaio per le sigarette. Si ferma davanti all'edicola per guardare i titoli dei giornali, anche se poi non ne compra nessuno. Fa qualche metro e si ferma davanti all'agenzia immobiliare a guardare le foto delle case. Poi torna alla macchina, che parcheggia sempre al solito posto, dietro un cassonetto, in un posticino libero che nessuno vede. Questa volta però non sale subito, perché le 4 gomme della macchina sono state bucate. Bestemmia, e per la rabbia tira un calcio alla macchina, anche se vorrebbe prendere a calci quello che gli ha fatto lo scherzo. Resta un po' lì a imprecare, poi si reca a piedi verso l'officina in cui lavora, che non è distante, ma a lui piace arrivarci in macchina perché dietro c'è un ampio parcheggio. Per arrivare al lavoro deve scendere delle scale e passare sotto un ponte che attraversa una specie di fiume. È un posto buio, pieno di sacchi di immondizie abbandonati, un po' inquietante, ed è lì che io lo aspetto, nascosto dietro un vecchio armadio sfondato. Con lo stesso cacciavite con cui ho bucato le gomme, lo aggredisco alle spalle prima che se ne accorga. Il traffico dell'ora di punta copre le sue grida di aiuto e di gente a piedi non ne passa mai. Tiro colpi su colpi e alla fine si accascia al suolo. Sono completamente sporco di sangue. Butto il cacciavite accanto al corpo, poi mi cambio in fretta i vestiti prendendoli da un sacchetto che ho portato con me. Torno a casa, camminando lentamente. Il cacciavite proviene dalla stessa officina in cui lavora e i vestiti che indossavo prima, quelli sporchi di sangue, sono di uno che lavora con lui e con cui in passato ha fatto botte per una questione di donne. Spero che questo basti ad allontanare da me le indagini, ma se anche così non fosse, se anche mi arresteranno, ciò accadrà in un futuro a cui oramai non ho più accesso, e non mi importa. Da allora è passato un giorno. Questa mattina mi sono svegliato accanto a Sara e le ho dato un bacio. Lei ha aperto gli occhi e mi ha sorriso. Oggi è il suo compleanno e quando è andato in cucina ha trovato il mio regalo sul tavolo. Lei adora le sorprese, un piccolo pensiero che non si aspetta la rende felice come una bambina. Per stasera abbiamo in programma di cenare fuori e poi andare al cinema. Quando lei esce vado al bar, quello che ormai è il solito bar, anche se ogni giorno è la prima volta che ci vado. Lui è seduto lì, al solito tavolo, assorto nel suo solito giornale. Lo guardo di sfuggita, provando qualcosa che per la prima volta non assomiglia all'odio. Nove giugno 2001. Oggi è il giorno in cui io e Sara ci incontriamo per la prima volta. C'è questo bar in cui sono seduto e davanti al bar una fermata dell'autobus. Tra poco lei arriverà e si metterà ad aspettare l'autobus. Io, che sono nuovo in città, le chiederò indicazioni stradali e verrà fuori per caso che anch'io devo prendere il suo stesso autobus. Giorno dopo giorno faremo sempre lo stesso viaggio insieme e finiremo col conoscerci sempre un po' meglio del giorno prima, fino ad innamorarci. Ma prima di questo giorno non ci siamo mai visti. E questo mi fa paura, perché una vita senza di lei non me la riesco più ad immaginare. Eccola, è arrivata. È insieme ad un'amica che però se ne andrà quasi subito, lasciandola sola. Guarda verso il fondo della strada, se per caso l'autobus è in arrivo, ma non si vede ancora niente. Allora prende un libro dalla borsa e si mette a leggerlo. Ricordo ancora il titolo, è uno dei miei libri preferiti e sarà la prima cosa che mi colpirà di lei, anzi sarà proprio grazie al libro che inizieremo a parlare. Un tempo c'era un quaderno in cui scrivevo un diario che ogni giorno iniziava dalla prima pagina. Quel quaderno ormai non c'è più, perché Sara non lo ha ancora comprato. Le frasi che scrivo su questo foglio, quando me ne sarò andato, resteranno sul tavolo e chi le leggerà probabilmente penserà che sono pazzo. E chissà che non abbia ragione. Ora l'autobus arriva. Sara è sola. Chiude il libro e lo rimette nella borsa. Prima di salire si guarda per un attimo intorno, come cercando qualcuno che non c'è. Poi quando sale le porte si chiudono e la portano via. Guardo l'autobus allontanarsi e sparire dietro una curva, fino a quando non c'è più. Ecco fatto. Tutto è finito. Nulla è ancora iniziato. Il sito delle storie ha presentato Verso il tempo di Riccardo Milo.